Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Nel lontano 1956, la signora Ruth Handler sta osservando la figlia Barbara che gioca. Invece di cullare il suo bambolotto preferito, la bambina ha ritagliato da una rivista alcune foto di giovani donne belle ed eleganti e inventa delle storie che le vedono protagoniste. Ruth, che è la moglie di uno dei fondatori della Mattel, allora piccola industria del giocattolo, ha una felice intuizione: creare qualcosa che non c'è. Una bambola con le fattezze di una donna adulta. La chiama Barbie, il diminutivo di sua figlia. E questa sua bella pensata rivoluziona totalmente non solo il concetto stesso di bambola, ma anche l'azienda di suo marito, che da allora si stima ne abbia vendute oltre 1 miliardo in tutto il mondo di bambole. Barbie diventa bionda, mora, rossa, bianca e nera, esercita tutti i mestieri, dalla cameriera alla candidata alla Casa Bianca. La vestono Armani, Versace, Christian Dior e Yves Saint Laurent. Milioni di bambine crescono con lei, migliaia di collezionisti fanno a gara per accaparrarsi le sue edizioni speciali. Ed è proprio una di queste che sta osservando tra il divertito e l'inorgoglita una donna. Non è più una bambina, anzi, ha già 57 anni. E le sembra proprio di trovarsi di fronte a uno specchio. Beh, a parte il fatto che lei è alta 30 centimetri, io qualcosina di più, non molto, ma un po' di più. Per il resto è identica a me. Gli stessi capelli rossi, le stesse collane, le calze, le scarpe, ma soprattutto lo stesso identico vestito. Accidenti! Sono proprio io com'ero nel 1984. Siamo nel 2010. La nostra amica sta guardando una Barbie che la rappresenta e che è stata appena lanciata sul mercato parte di una trilogia chiamata Ladies of the 80s, le signore degli anni 80. Si tratta di tre Barbie che rendono omaggio ad altrettante icone della musica pop rock di quegli anni. Debbie Harry dei Blondie, Joan Jett delle Runaways e infine lei, una ragazza che negli anni 80 voleva solo divertirsi. Quintessenza dello spirito indipendente che ispira le ragazze di tutto il mondo a divertirsi, la protagonista dei Magnifici Destini di oggi è una cantante, compositrice e performer unica, irriverente, che si affaccia nel panorama musicale degli anni Ottanta con un look stravagante e innovatore, un sound straordinariamente nuovo e una musica trascinante che la trasforma da un giorno all'altro in una star indiscussa. Il suo nome è Cyndi Lauper. Oggi vi raccontiamo la sua storia, per farla conoscere meglio a chi allora non c'era, per farla ricordare a chi invece era lì e ha ballato sulle note dei suoi pezzi coinvolgenti, per approfondire insieme quegli incontri che hanno contribuito a rendere Cyndi Lauper una personalità determinante nell'evoluzione della musica contemporanea. Lasciamola rimirare la bambola per eccellenza, quella Barbie che la ritrae con tanta fedeltà anche nel look. E andiamo indietro nel tempo fino a una mattina del 1977, in cui una ragazza di 24 anni sta entrando al 119 West dell'88esima strada di Manhattan. Cerca la suite 1B, dove hanno sede gli studios di Katie Agresta, una famosissima vocal coach. Mi ero completamente sciupata le corde vocali a cantare a squarciagola nei bar di New York, dove la gente parla a voce alta e se ti vuoi far sentire devi gridare con tutto il fiato che hai in corpo. Non avevo mai studiato e non sapevo cantare senza farmi del male. Il risultato fu che persi completamente la voce e ben 3 medici mi dissero che era meglio se ci rinunciavo a questa cosa di voler per forza fare la cantante. Non vorremmo raccontarvi la solita storia della rockstar che fin da piccola ha un solo sogno nel cassetto, e cioè fare la rockstar. è che c'è poco da fare. Cindy, tra parentesi, Cyndi Lauper è proprio il suo vero nome. È una ragazzina dalla spiccata creatività. A 12 anni sua sorella maggiore le regala una chitarra e da allora la sua strada è tracciata. Si veste come una matta, si tinge i capelli dei colori più impossibili. Si carica il fisico esile e piccolino con chili di ferraglie varie tra collane, anelli e braccialetti e va in giro per i locali di New York cercando qualcuno che la faccia cantare, visto che non ha altro per la testa. Il tutto per la gioia di sua madre, naturalmente. E siccome è un personaggio, è stravagante e canta e suona benissimo, di padroni di bar che la fanno esibire ne trova parecchi, fino a perderci la voce. Io non mi potevo arrendere all'idea di non cantare più a soli 24 anni. Così dissi: chi è il vocal coach più famoso d'America? Katie Agresta? Benissimo, io vado da Katie Agresta. Sono rimasta complessivamente 7 anni e mezzo con lei e il lavoro che abbiamo fatto insieme è stato fondamentale per la mia carriera. Cindy ha una determinazione ferrea, vuole cantare e basta. Gli esercizi e gli allenamenti di yoga della famosa vocal coach Katie Agresta, insegnante di personaggi come Bon Jovi, Annie Lennox, gli Aerosmith, sono duri, difficili e lunghi e richiedono un impegno costante. Ma lei non molla, nonostante abbia tutti contro, compresi i suoi nonni che tra l'altro sono di origine italiana. Vengono dalla Sicilia. È una cosa che le dà la testa. Oh no! Tu sei pazza! Gli esercizi di Katie Agresta infine ottengono i primi risultati e dopo un anno di duro lavoro ridanno la voce a Cyndi Lauper e le insegnano come usarla in maniera corretta. La giovane cantante si rimette in gioco, inizia nuovamente a girare per i bar di Manhattan chiedendo un ingaggio ed è a questo punto che incontra quello che si può senza dubbio considerare il primo magnifico destino della sua carriera, il sassofonista John Turi. Lo incrocia proprio in un bar. Glielo presenta un manager che lei conosce da tempo, un certo Ted Rosenblatt. John suona anche le tastiere e compone canzoni. Lui e Cindy si intendono subito, hanno gli stessi gusti musicali, sono un po' svitati tutti e due e in men che non si dica prendono una decisione, quella di creare un gruppo. È il 1978. Nascono i Blue Angels. Maybe He'll Know viene scritta a due mani da Cyndi Lauper e John Turi e diventa subito un discreto successo dei Blue Angel, identificabili come una retro rockabilly band che incomincia ad essere richiesta nei club di New York. Cindy è felice. In barba ai tre medici che la volevano finita come cantante, lei ora è lì su quel palco di uno dei tanti bar di Manhattan che sono da sempre il trampolino di lancio per gli artisti emergenti come lei. Difatti sono in molti che la osservano interessati, quella strana ragazza con quei capelli cotonati tinti di rosso, quell'abbigliamento inusuale, eccentrico, quella quantità di collane, orecchini, anelli, bracciali che la fanno tintinnare in continuazione, è un vero personaggio. Porta la pancera di sua nonna come gonnellina, anticipando di alcuni anni la moda dell'intimo in bella mostra che farà di Madonna un'innovatrice e una rivoluzionaria. Lei ce l'ha già su, nel 1978. La sua immagine è particolare, unica. Ma ancor più lo è la sua voce, dotata di una estensione notevolissima, ben 4 ottave. I Blue Angel si esibiscono dunque nei bar di New York, ma in realtà la vera attrazione del gruppo è Cindy, e alla fine i 5 componenti decidono di seguire ciascuno la sua strada, anche se Cindy e John Turi continuano a collaborare costantemente. Cindy deve comunque sbarcare il lunario. Per portare a casa qualche soldo, lavora come commessa in una catena di charity shops, l'equivalente dei nostri mercatini dell'usato a scopo benefico. Ma la notte la si può sentire cantare nei bar di New York, specialmente in uno che si chiama El Sombrero. È una delle tante sere in cui la giovane si esibisce su quel palco, dopo una giornata di lavoro in negozio. Anche se è stanca, lei ce la mette tutta, come sempre. Tra il pubblico siede un giovane uomo. È venuto apposta per ascoltarla. Qualcuno gli ha parlato di una ragazzina minuta, stravagante, vestita come una pazza, che canta davvero bene, esegue cover di tutti i brani più famosi del momento, ma lo fa con uno stile tutto suo. Quel giovane uomo è un cacciatore di talenti. Il suo nome è David Wolf. Non mi avevano detto una sciocchezza. Cindy era veramente forte. Non le serviva altro che trovare la canzone giusta, ma lei era pronta a fare il salto. Mi offrì immediatamente di farle da gente. David Wolf sa il fatto suo, sa riconoscere il talento e anche quel qualcosa in più che fa la differenza. E Cindy ce l'ha. Per la giovane cantante è sicuramente un incontro determinante, il secondo magnifico destino della sua carriera. Wolf le procura immediatamente un contratto con la Portrait Records, l'etichetta di John Baez e più avanti di Sade. La cantante entra in sala di registrazione nel dicembre del 1982 e ne esce nel giugno del 1983. In quei sei mesi viene realizzato il suo album di esordio, She's So Unusual, che per la sua importanza assoluta nel panorama della musica mondiale e per il numero di hit in esso contenute, merita un approfondimento speciale. Intanto ascoltiamoci il primo dei successi contenuti nell'album, la grandiosa, intramontabile Girls Just Want to Have Fun. Scritta dal compositore Robert Hazard nel 1979 e pensata per un interprete maschile, Girls Just Want to Have Fun racconta le imprese di un late in lover che sa come far divertire le ragazze, dato che questo è quello che loro vogliono. La canzone viene proposta a Cindy, la quale non ci pensa su due volte e con piccoli e quasi insignificanti cambiamenti di testo trasforma il brano in una sorta di manifesto femminista in musica. Le parole erano esattamente le stesse, solo che chi parlava era un uomo. Diceva che le ragazze erano esseri fortunati perché volevano divertirsi e lui le faceva divertire. Insomma, era stata scritta per un cantante maschio. David Wolf mi disse: «Pensaci un po', vedi cosa puoi tirarne fuori». Beh, se la dovevo cantare io, bisognava cambiare qualcosina. Allora pensai alle donne che conoscevo, mia madre, mia nonna, mia zia, donne che non avevano avuto una possibilità, che non avevano sogni. E la nuova canzone venne fuori così, da sola, si può dire. Girls Just Want to Have Fun, cantata da Cyndi Lauper, ha qualcosa di speciale. Sarà il modo in cui lei canta, sarà il suo ritmo coinvolgente, saranno i versi che inneggiano a una presa di coscienza delle donne e del loro diritto a riappropriarsi dei sogni. Ma non appena questa canzone arriva alle orecchie del pubblico, l'effetto è a dir poco deflagrante. Come un incendio senza controllo, come un virus di contagiosa allegria, l'uragano Cyndi Lauper invade il mondo. Quando cantai questa canzone, la vidi come l'opportunità di raggiungere giovani donne e ragazze di tutti i colori per parlare dei loro diritti. Con humor, ovviamente. Provai a catturare l'immaginazione delle persone e parlare di una tipologia di donna che non era molto frequente incontrare in quegli anni, donne più simili alle persone creative che io frequentavo. Tutti hanno il diritto di avere un'esperienza gioiosa, di divertirsi. Girls Just Want to Have Fun non è solo una straordinaria canzone, ma diventa anche un video dal successo incontenibile. Non avrebbe dovuto proprio esistere questo video. Al tempo non è ancora una prassi quella di accompagnare le canzoni a una produzione del genere. E in più, tutto sommato, chi è Cyndi Lauper per investire tutti questi soldi su di lei? Ma Cyndi, che è una ragazza sveglia e molto avanti per il suo tempo, è convintissima che un video possa rappresentare un ottimo veicolo per la canzone e trainare dunque l'album. Quindi chiama a raccolta tutti i suoi amici e parenti. Quando realizzammo il video, tutti i miei amici vennero allo studio. C'era una ressa incredibile quella mattina. Vennero perfino tutti i parrucchieri che conoscevo, e io ne conoscevo tanti. Tutti aiutarono, tutti. Così potemmo farlo perché i soldi a disposizione erano pochi e non avrei potuto pagare così tanti attori. E naturalmente venne anche la mia famiglia ad Armanforte. Realizzato con un budget ridottissimo, il video mostra una Cyndi Lauper scatenata che raccoglie in giro per le strade di New York un'accolita di personaggi buffi, sgangherati, divertiti, pieni di brio. Quello che diventa in breve un serpentone di gente che canta e balla scatenandosi, infila la porta di casa di Cyndi sotto lo sguardo inebetito dei suoi genitori per concludere la festa nella camera della ragazza. Una nota divertente: il ruolo della madre di Cyndi è interpretato dalla vera mamma della cantante, Catherine. E nel video compaiono anche il fratello, Butch, il suo cane, Sparkle, mentre il padre ha il volto del capitano Lou Albano, famosissimo wrestler professionista che da quel momento in poi diventa amico e collaboratore fisso di Cyndi. Io, Capitan Lou Albano, predico che Cyndi Lauper sarà la più grande artista di tutti i tempi. Il video di Girls Just Want to Have Fun riceve immediatamente il massimo riconoscimento del tempo. Best Female Video all'MTV Video Music Award del 1984. Cindy si presenta sul palco con lo stesso look stravagante e la stessa verve del video e ringrazia tutti i suoi collaboratori. Più che emozionata, sembra divertita e scherza come fa sempre. The winner is Cyndi Lauper. Boy, am I glad I won, otherwise this tiara would have looked awfully stupid. Ma facciamo un passo indietro. Abbiamo detto che She's So Unusual, album di esordio di Cyndi Lauper, ha un vero e proprio Guinness dei primati tuttora imbattuto. Vi compaiono infatti ben 5 brani che diventano all'istante 5 hit mondiali, rendendo Cyndi l'unica artista donna nella storia della musica ad avere contemporaneamente così tante canzoni in classifica nelle prime posizioni. Un album che da allora ha venduto complessivamente oltre 16 milioni di copie in tutto il mondo. Possiamo immaginare che soddisfazione debba essere per Cyndi, che ha ancora il suo contratto di commessa al charity shop dove lavorava fino a pochi mesi prima, e ora si ritrova improvvisamente ad essere ricchissima e super famosa. Ma Cyndi se lo merita tutto questo successo, anche perché il secondo brano dell'album, che entra prepotentemente in classifica, lo ha scritto lei. Io ho la chiave, dall'893 al 79, 86 anni. 2 anni al minuto fanno 43 minuti. Tempo previsto per l'arrivo, le ore 11:15. Esatto. Il futuro. Succede così. Cyndi è in una pausa durante il primo mese di registrazione del suo album di esordio. Sta guardando un film con il grande Malcolm McDowell, mitico interprete di Arancia Meccanica. È la trasposizione cinematografica della novella La macchina del tempo di H.G. Wells, l'autore della Guerra dei Mondi, tanto per capirci. Il film le fa venire subito in mente una canzone che la ragazza butta giù in una notte e propone ai suoi produttori. La pellicola in italiano si intitola L'uomo venuto dall'impossibile, ma il titolo originale che ispira Cyndi è Time After Time. Magnifici destini. Penso a nuove sensazioni, belle vibrazioni. Voglio andare al sud. Ma loro mi dicono che è meglio che io smetta o diventerò cieca. Così canta l'irriverente Cyndi Lauper, la nostra magnifica protagonista di oggi, nella sua canzone She Bop, che rappresenta uno dei suoi maggiori successi di tutti i tempi. Rilasciata nel 1984 come singolo, fa parte dell'album di esordio della cantante, She's So Unusual, che contiene successi strepitosi come Girls Just Want to Have Fun e Time After Time. She Bop è forse la canzone più controversa della giovane Cyndi perché, anche se in maniera più esplicita, parla di masturbazione. Un testo che fa arrabbiare molto Tipper Gore, moglie del senatore e poi vicepresidente Al Gore, fondatrice del Parents Music Resource Center, associazione statunitense nata con lo scopo di valutare il contenuto dei prodotti discografici sotto il profilo morale ed educativo, che mette al bando non solo il brano di Cyndi, ma anche alcuni di Prince, di Madonna e dei Black Sabbath. Il punto non è il valore artistico di un brano, ma che i suoi contenuti hanno espliciti riferimenti a sesso, droga, violenza. E questi contenuti vanno segnalati, affinché i genitori conoscano il problema. Per quanto Tipper Gore si sforzi, il disco She Bop di Cyndi Lauper diventa un successo mondiale. Anzi, il secondo singolo più venduto della cantante dopo Time After Time, oltre ad essere il suo terzo singolo a figurare nella top 5 delle classifiche americane. A breve distanza di tempo anche Money Changes Everything e When You Were Mine, cover di un brano di Prince, scalano le classifiche mondiali, trasformando Cyndi Lauper in una superstar e nell'unica cantante donna ad avere mai avuto 5 singoli contemporaneamente al top delle hit più vendute. Un successo assolutamente inimmaginabile. Cyndi Lauper sta viaggiando in tutto il paese per la promozione del suo album. Solo un anno prima passava le sue giornate nel mercatino dell'usato dove era commessa e le sue nottate nei bar di New York alla ricerca di un contratto. Ora è una star. La sua eccentricità genuina, la sua sincerità e il suo non accettare compromessi la fanno amare da un pubblico molto vasto, non solo dai ragazzini. Piace anche alle mamme, ai nonni, è un'icona di stile e poi è molto divertente. Il suo successo si trasforma in qualcosa di decisamente concreto. Un premio prestigioso e ambito che è il sogno di tutti i cantanti, il Grammy Award. È il 1985 e il suo album She's So Unusual vince il 27esimo Best New Artist Award. And the best new artist is... Oh, Cyndi Lauper. Sembra un bel sogno quello che sta vivendo Cyndi. E alcune volte lei se lo domanda davvero se sia la realtà o solo un sogno. Un'escalation così repentina è veramente qualcosa difficile da gestire, ma la nostra ragazza si vuole divertire, non dimentichiamocelo. Cyndi Lauper non è una di quelle persone che si montano la testa, è un personaggio troppo anticonformista per farlo. Però una mattina riceve una telefonata che la fa sobbalzare. Questa è davvero una cosa che le dà il capogiro. Le parlano di un progetto per lei assolutamente esaltante, al quale le chiedono di partecipare. USA for Africa, We Are the World, mitico brano realizzato a scopo benefico da Michael Jackson, Lionel Richie e Quincy Jones nel 1985, si avvale della collaborazione di 45 cantanti di cui 21 solisti, tra i quali Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Tina Turner, Diana Ross, Ray Charles, tutti i più grandi interpreti della musica mondiale contemporanea. E tra di loro, il giorno della registrazione, il 28 gennaio 1985 a Hollywood, c'è anche Cyndi Lauper, protagonista fra l'altro di un divertente episodio. Durante la registrazione del suo intervento insieme ad altri cantanti, i tecnici avvertono un ripetuto suono metallico che crea disturbo e si devono fermare più volte. Alla fine il mistero viene chiarito. Oh, is that... oh, my earring. Ma sono i miei orecchini! Mi dispiace tanto, e le mie collane... Quando c'è di mezzo Cyndi Lauper c'è sempre da divertirsi, non c'è che dire. Una ragazza come lei, con le sue doti vocali, ma anche fisiche, con il suo look trasgressivo e al tempo stesso rassicurante, può trovare modo di esprimersi in ambiti tra i più differenti. È quello che sta pensando un regista e produttore molto importante. Basta dire il suo nome, non serve aggiungere altro. Steven Spielberg. Nel 1985 Spielberg ha già realizzato film come Lo Squalo, Incontri ravvicinati del terzo tipo, I predatori dell'arca perduta, E.T. Ora ha per le mani un soggetto che ha scritto lui stesso, si chiama I Goonies, e racconta le avventure di un gruppo di ragazzini scatenati, una vera e propria banda che vive ad Astoria, in Oregon. Quel soggetto gli piace particolarmente e così decide di ricavarne un film. Che è successo là? Avete rischiato la vita? La piovra era veramente spaventosa. La piovra? La piovra? Sì, era molto pericolosa. La cosa più pericolosa sì. È stato camminare sulla passerella. Camminare sulla passerella? Sì, e quando abbiamo trovato la nave pirata... Nave sì, pirata. E dentro c'era che il tesoro cosa? Dei pirati. Siamo stati inseguiti. Sentite, dalla banda fratelli. Va bene, ora basta ragazzi. Ce ne sei inventata un'altra, stata... Lawrence? No, no, è vero. Questa volta ho detto tutta la verità. Sì, è vero. Sì, certo, ma trovate lui. Madre santissima, ma che cosa sta... Ma che c'è? Guardate. I Goonies poteva venire un bel film, ne ero soddisfatto, ma aveva bisogno di una colonna sonora particolare. Doveva essere scherzosa, giocosa, da bambini, ma con qualcosa di adulto, perché la storia aveva dei risvolti drammatici. Non era semplice e pensavo, ci vuole qualcuno che si diverta a farla. La cosa successiva che mi venne in mente fu quella canzone in cui si diceva che le ragazze vogliono divertirsi. E così pensai a Cyndi Lauper. Cyndi ha un altro bel colpo quando le dicono che Spielberg in persona la vuole vedere per un progetto cinematografico e non è così pazza da lasciarsi scappare un'opportunità del genere. Il soggetto dei Goonies la fa ridere, è divertente e così la sua fantasia, che galoppa già da sola, la porta a scrivere una canzone matta fuori dagli schemi, proprio come lei. The Goonies Are Good Enough, che sulla scia del film divenuto in breve un cult movie degli anni Ottanta, ottiene un successo grandioso, entrando nella top 10 delle classifiche americane. Un piccolo cameo nel film e ben due video della canzone, dove appare anche Spielberg, oltre al sempre presente Captain Lou Albano, sembrano sufficienti ad aprire per Cyndi le porte del cinema. Dopo i Goonies, sono moltissime le sue apparizioni in film e serie TV anche molto note, come i recenti Gossip Girl, 30 Rock e Bones. Ma ricordiamoci che Cyndi è soprattutto una cantante, una compositrice e una musicista. E il 15 settembre 1986 presenta il suo secondo album, scritto con un pool di musicisti e con l'amico di sempre, John Turi. Il suo titolo è True Colors. Unica traccia dell'intero album a non essere scritta da Cyndi, la canzone True Colors, che dà il nome al disco, è di Billy Steinberg e Tom Kelly, gli autori di Like a Virgin di Madonna. Quando i due presentano il pezzo a Cyndi, lei inorridisce. È arrangiato a mo' di ballata gospel sul genere di Bridge Over Troubled Water e a lei proprio non piace. La sta ascoltando e comprende che c'è molto di buono in quella canzone, ma va completamente smontata e rimontata. La ragazza vuole divertirsi ancora, smantella l'arrangiamento tradizionale del brano e realizza qualcosa che gli autori stessi definiscono un intervento da togliere il fiato. True Colors ha un successo immediato, anche se non duplica l'apoteosi ottenuta con il primo album She's So Unusual, tranne in Giappone, dove ha un successo a dir poco stellare. Vende comunque ben 2 milioni di copie nei soli Stati Uniti e determina il consolidamento di Cyndi Lauper come figura fondamentale del panorama musicale degli anni 80 e 90. La canzone True Colors diventa anche un inno gay, rinnovando la tradizione che vede Cyndi sempre in prima linea accanto a coloro che lottano per i propri diritti. Ma di tutto l'album c'è una canzone che Cyndi preferisce e alla quale è molto legata. L'ha scritta lei, ci tiene moltissimo. Come al solito ci vede giusto, anche questo pezzo, Change of Heart, diventa subito un grandissimo successo mondiale. Ti viene sempre detto dovresti fare questo e dovresti fare quello. Beh, sapete cosa vi dico? Bisogna essere fedeli a se stessi. Non bisogna per forza seguire il sentiero che ci viene tracciato dagli altri. Non siamo pecore. Anticonformista per eccellenza, trasgressiva non per atteggiamento o per moda, ma per naturale predisposizione, estremamente sincera. Questo e molto altro è la protagonista della nostra puntata odierna dei Magnifici Destini, la divertente e simpatica Cyndi Lauper. Icona pop rock degli anni Ottanta, divenuta una star mondiale praticamente in una notte, quella del rilascio del suo album di esordio, She's So Unusual, che contiene l'inno femminista più buffo e divertente che sia mai stato scritto, Girls Just Want to Have Fun, Cindy procede negli anni con la sua carriera, alternando i successi di cantante a quelli di attrice, soprattutto televisiva. Questo non le impedisce di sposarsi con l'attore David Thornton e di mettere al mondo un bel bambino nel 1997, che si chiama Declan. I figli ti insegnano cos'è il compromesso. Perché loro ti vogliono avere, non vogliono condividerti con gli altri. Vogliono che la loro mamma sia solo la loro mamma. È una linea difficile sulla quale muoversi quando vuoi portare avanti la tua arte ed avere anche una famiglia. Sei in perenne conflitto. Sono una mamma che lavora. Una mamma che lavora, che continua regolarmente negli anni a realizzare produzioni di grande livello, da Night to Remember a 12 Deadly Signs and Then Some, che raccoglie tutti i suoi più grandi successi. È in questo periodo che nella vita di Cindy si verifica qualcosa di molto importante, una vera e propria presa di coscienza. Sua sorella Ellen le sta aprendo il suo cuore e le confessa la sua omosessualità. Cindy non è certo quella che si fa problemi di questo genere, proprio lei che è l'anticonformista per eccellenza, ma vede la difficoltà di sua sorella. Comprende che una persona pubblica come lei, nella sua posizione, con il suo seguito, può fare molto per coloro che per una qualsiasi ragione vivono il proprio stato con angoscia. Il suo diventa un impegno fattivo, sia durante i Gay Pride, sia in seno alle associazioni che combattono l'omofobia e il dilagare della malattia del secolo, l'AIDS, e si fa promotrice di un progetto grandioso, il True Colors Tour for Human Rights. Amici, familiari e la totalità della comunità rappresentano una quantità immensa di persone. E noi tutti insieme facciamo molto rumore. Io credo che la gente non conosca i fatti. Non si sa che puoi essere licenziato in ben 33 stati se sei gay o bisessuale o transgender. Non si sa cosa siano i crimini d'odio e come vengano considerati dalla legge. L'educazione e l'informazione sono così importanti. Questo è quello che cerchiamo di fare con il True Colors Tour. Con gioia e con amore, naturalmente. Con lo stesso amore che mette in tutte le cose che fa, Cindy si butta a capofitto nelle attività benefiche che sta tuttora portando avanti con il True Colors Fund, creato appositamente per supportare in maniera concreta le varie associazioni umanitarie a livello mondiale. Ma in parallelo, il suo amore per la musica la riporta nuovamente in pista nel 2010, con un progetto molto particolare, il suo ultimo album, l'11º, Memphis Blues. Il blues è la base di tutta la musica moderna. Il blues e anche il gospel. Io mi divertivo un mondo a cantare in chiesa. Comunque, l'idea di fare un album di blues mi è venuta proprio andando alla ricerca delle mie origini. Memphis Blues è il terzo album di maggior successo di Cyndi Lauper dopo i suoi storici She's So Unusual e True Colors. Entrato immediatamente al primo posto delle classifiche blues, rappresenta il lavoro della maturità artistica di Cindy, che si avvale di una collaborazione prestigiosissima, quella del grande B.B. King. Chitarrista e vocalist eccelso, considerato uno dei più grandi di tutti i tempi, B.B. King è sicuramente uno dei padri del blues. Il suo incontro con Cindy avviene proprio a Memphis, da dove parte la grande avventura del mitico chitarrista e dove nasce il primo dei tanti B.B. King's Blues Club, che sono oggi disseminati in tutto il territorio statunitense. Sono stata a Memphis da B.B. King per un po'. È una bella cittadina. Devi andare per forza al sud per fare un album di blues, non puoi farlo a New York. E mi è anche piaciuto molto il sud. L'unico grosso problema l'ho avuto per le strade, perché io sono abituata a guidare in autostrada dove non ci sono le curve a U, mentre il sud è pieno di curvoni. Ma no, guardate che è un problema quello della guida. Se andavo a sbattere non facevo l'album. Sempre spiritosa e sopra le righe, nonostante si avvii verso i 60 anni, Cyndi Lauper mantiene in ogni occasione quella brillantezza di spirito, quella verve e giovialità che l'hanno fatta amare da milioni di fan in tutto il mondo. Possono passare gli anni, possono passare gli scenari, ma lei rimane sempre e per sempre la ragazza che vuole a tutti i costi divertirsi.